i salmi imprecatori e le imprecazioni nei salmi. Prima di entrare nel merito di questo argomento ti chiedo una cosa. Quante volte sei stato edificato nel leggere il Salmo 139? It's so now, salmo veramente stupendo che esalta e loda l'onniscienza e l'onnipresenza di Dio. Ogni volta che lo leggo sono grandemente benedetto, esso mi suscita pace e serenità, ma quando arrivo al termine del salmo rimango perplesso. Certo, tu ucciderai l'empio, oh Dio, perciò allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te malvagiamente, i tuoi nemici si servono del tuo nome per sostenere la menzogna. Eterno, non odio forse quelli che ti odiano, e non detesto quelli che insorgono contro di te. Io li odio di un odio perfetto, li considero miei nemici. Salmo 139:19-22. Le ultime affermazioni del salmista sembrano guastare la bellezza della sua preghiera e dello spirito di adorazione. Per questo mi sono posto l'interrogativo circa il motivo delle imprecazioni che troviamo nei salmi. Sono giuste? Quando i salmisti esprimono i loro sentimenti negativi davanti a Dio nei confronti dei loro nemici, sono guidati da Dio? Sono compatibili con la morale cristiana? Cercheremo in questo studio di dare una risposta a questi leciti interrogativi. Quando si parla di salmi imprecatori, si intendono quei salmi che contengono degli appelli a Dio? Perché riversi la sua ira sui nemici. Essi sono 4. 3559-69109. Dal momento che questo atteggiamento molto difficilmente noi lo conciliamo con il pensiero cristiano, dobbiamo ammettere, onestamente, di trovarci di fronte ad un problema certamente non facile. Il valore dei salmi. A. Innanzitutto essi non sono degli sfoghi di ira ma delle preghiere, come troviamo scritto nel Salmo 72:20. Qui finiscono le preghiere di Davide figlio di Isai. B. Su 283 passi del Nuovo Testamento che citano l'Antico Testamento, 116 sono tratti dai Salmi. Questo significa che sono quasi la metà del totale. C. Dopo il libro di Isaia, quello dei Salmi, è il libro dell'Antico Testamento che troviamo citato più spesso nel Nuovo Testamento. D. Gesù amava profondamente i Salmi. Anche in croce si è servito del loro linguaggio. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Salmo 31:5. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Salmo 22:1. E i discepoli nei loro scritti hanno spesso fatto riferimento ad essi. Salmo 35:19. Mi hanno odiato senza motivo. Troviamo questa citazione in Giovanni 15:25. Salmo 109:8. Il suo incarico lo prenda un altro. Fanno questa citazione gli apostoli in Atti 1:20. Il Salmo 69, uno dei salmi imprecatori, era molto conosciuto. Vidu 4. Mi hanno odiato senza motivo, viene citato in Giovanni 15:25. Vidu 9. Lo zelo della tua casa mi consuma. E, citato in Giovanni 2:17 e Romani 15. 3:22-23. La loro mensa sia una trappola. Lo cita Paolo in Romani 11:9-10. Versetto 25. La sua dimora diventi deserta. Lo citano gli apostoli in Atti 1:20. F. I salmi sostennero i primi martiri che suggellarono col sangue la testimonianza della loro fede. G. Nel servizio religioso delle chiese cristiane, i salmi ebbero un posto notevole. H. Prima di morire, Agostino fece mettere i 7 salmi penitenziari, quelli che hanno a che fare con la confessione di peccato, vicino al suo letto in modo da poterli leggere. 1-4-3-6-3-2-3-8-5-1-1-0-2-1-3-0. E William Glaston disse che tutte le meraviglie della civiltà greca messe insieme. Il capitolo più lungo della Bibbia è il Salmo 119. Il capitolo più breve è il Salmo 118. Il versetto centrale della Bibbia è il versetto 8 del Salmo 118. E, meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Il valore delle imprecazioni nei salmi. Il valore spirituale dei salmi è immenso. Ciò che caratterizza i salmi è l'intensità dei sentimenti che anima il salmista nei confronti dei suoi simili. Nel Salmo 139 abbiamo notato come egli ami coloro che sono giusti e umili, mentre odia gli oppressori e i bugiardi, versetto 21-22. Qualcuno potrebbe ritenere le imprecazioni contenente nei salmi di scarso valore o di dubbia utilità. Il cristiano è tentato di considerare il sermone della montagna e il perdono predicato da Cristo superiori ai sentimenti espressi dai salmisti. Ma, come disse qualcuno, una simile reazione non è simpatica né necessaria. Dobbiamo arrivare alla convinzione che sia un errore intendere certi sentimenti dei salmisti, quali espressioni di un sentimento subcristiano e di genere permesso ai credenti dell'Antico Testamento, in attesa di una maggiore rivelazione. Vediamo il perché. 1. Quando parliamo di rivelazione progressiva, non intendiamo il passaggio dall'errore alla verità, ma un progresso da una verità oscura e parziale ad una verità più chiara e completa. Come esempio pensiamo al credente dell'Antico Testamento che otteneva giustificazione. Paolo afferma in Romani 3, 25-26 che Dio ha usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, allontanandoli e coprendoli, ma che ora in Cristo sono stati tolti, espiati. Il problema del peccato dell'uomo viene sempre risolto da Dio non in modi contraddittori ma complementari. 2. Un altro concetto che dobbiamo demolire è quello di pensare che l'Antico Testamento si basi su di una morale subcristiana. L'Antico Testamento insegnava il dovere dell'amore come fa il Nuovo. Se vedi l'asino di colui che ti odia caduto a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il suo padrone a scaricarlo. Esodo 23, 4-4. Non opprimere lo straniero. Proverbi 23, 9. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Proverbi 25, 21. Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Proverbi 00:17. Ama il prossimo tuo come te stesso. Levitico 19, 18. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra di voi. Tu lo amerai come te stesso. Levitico 23, 9. I salmisti hanno realizzato nella loro vita il messaggio cristiano come pochi cristiani. Mi percuota pure il giusto, sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo, il mio capo non lo rifiuterà. Io continuo a pregare mentre fanno il male. Salmo 141, 5. Non si è forse Gesù ispirato alle parole del salmista quando ordinò ai suoi discepoli di pregare per i nemici? Quanti cristiani continuano a pregare mentre vengono percossi? 3. Teniamo presente che i sentimenti dei salmisti sono espressi in preghiere, cioè venivano formulati in una forma verbale, liturgica. Questo significa che i nemici non venivano respinti con sdegno mediante azioni. Infatti nel Salmo imprecatore 35 Davide invoca Dio dicendo: sventura li colga all'improvviso, che per noi sarebbe gli venga un accidenti, a seguito del fatto che Saul lo voleva morto. Ma dal racconto biblico sappiamo che Davide per due volte ha avuto l'occasione di ucciderlo e non lo ha fatto. Inoltre, quando Saul morì, Davide compose un bellissimo canto funebre, dove ne esaltava il coraggio e volle che fosse insegnato al popolo. 4. I salmi, nei quali si trovano le imprecazioni, quasi sempre contengono sentimenti che dovrebbero destare l'invidia dei cristiani. Ricordati, Eterno, dei figli di Edom, che nel giorno di Gerusalemme dicevano: spianatela. Spianatela, fin dalle fondamenta, figlia di Babilonia, che devi essere distrutta. Beato chi ti darà la retribuzione del male che ci hai fatto. Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia. Salmo 137, 7-9. Quando leggiamo questa preghiera rimaniamo un po' perplessi. E, da notare però che nel salmista non vi è il desiderio di fare vendetta. Beato chi ti darà, chi afferrerà. Il suo è un giusto sentimento di giustizia. Ogni preghiera deve essere considerata nel suo contesto. Ecco quello che il salmista aveva dichiarato prima. Là, presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là ci chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati dei canti di gioia quelli che ci opprimevano, dicendo: «Cantateci canzoni di Sion, come potremmo cantare i canti dell'Eterno in terra straniera. Se ti dimentico, Gerusalemme, sì, paralizzi la mia destra, resti la mia lingua attaccata al palato se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia». Questi sono sentimenti di profondo amore per Dio, per la sua causa. Il salmista era dunque motivato a formulare una simile preghiera perché era mosso dallo zelo per il regno di Dio. Fossimo noi sempre in grado di presentarci a Dio con un simile atteggiamento e vivere dello spirito della loro testimonianza. Ho detto a Dio: «Tu sei il mio Signore, non ho bene alcuno all'infuori di te». Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Salmo 16, 2, 3, 5. È poco convincente spiegare i passi imprecatori col dire che in fondo si tratta di immoralità dell'Antico Testamento, perché questo modo di pregare, il desiderio di giustizia, le manifestazioni di gioia in seguito al trionfo del bene, si trovano anche nel Nuovo Testamento. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo, come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, 8 a 9. Paolo ritiene e chiede che sia ritenuto anatema, maledetto, scomunicato, chi annunziava un Vangelo diverso dal suo. E non solo. I santi in cielo manifestano anche sentimenti di vendetta. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» Apocalisse 6, 9, 10. I santi che sono alla presenza di Dio chiedono che venga fatta giustizia e vendetta per il loro sangue sopra gli abitanti della terra. È proprio vero che alla presenza di Dio si dimentica ogni cosa. O dobbiamo attribuire al verbo dimenticare un significato diverso da quello comune? Mentre tutto il mondo piangerà per la sorte di Babilonia, i santi, gli apostoli e i profeti sono invitati a rallegrarsi, perché Dio l'ha giudicata. Tutti i piloti, tutti i naviganti, i marinai e quanti trafficano sul mare se ne staranno lontano. E vedendo il fumo del suo incendio esclameranno: «Quale città fu mai simile a questa grande città?» E si getteranno della polvere sul capo e grideranno, piangeranno e faranno cordoglio, dicendo: «Ai! Ai, la gran città nella quale tutti quelli che avevano navi in mare si erano arricchiti con la sua opulenza, in un attimo è stata ridotta a un deserto. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi santi apostoli e profeti, rallegratevi perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia». Apocalisse 18, 17, 20. Questi cinque aspetti ci portano a riaffermare che le imprecazioni contenute nei Salmi scaturiscono da sentimenti cristiani, perché il nostro cristianesimo non diventi sentimentale, moralista. È forse giusto di rivedere il nostro modo di pregare e di intendere la santità di Dio e quella del cristiano. Il fatto che oggi noi cristiani viviamo un cristianesimo superficiale è probabilmente dovuto al fatto che non viviamo intensamente i sentimenti di Dio. Non possiamo amare la verità senza odiare il peccato, senza avere verso ciò che è ingiusto una forte avversione. «Abolite il male», ordina Paolo in Romani 12, 9, cioè separatevi, distaccatevi da esso. E dal momento che il male non è impersonale, una forza oscura, ma è una realtà connessa all'uomo, la separazione si deve manifestare non solo nei confronti del male, ma anche di chi lo commette. Forse il peccato del credente del XX secolo è quello di mescolarsi con il mondo, di vivere nel compromesso, di essere un abile giocatore delle cose di Dio in modo che dica tutto ma senza traumatizzare o scioccare nessuno. Un Vangelo che non provoca, che non mette in crisi, che non costringe l'uomo a rivedere il suo rapporto con Dio, che non suscita una rivoluzione nel mondo, non è il vero messaggio di Dio. Gesù disse: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada». Vediamo ora i motivi che stanno alla base di queste affermazioni dei santi, dell'Antico Testamento? A. Le imprecazioni contenute nei Salmi derivano dal fatto che Dio è il Dio delle vendette. Dio delle vendette, o Eterno Dio delle vendette, mostrati nel tuo fulgore, ergiti giudice della terra, rendi ai superbi quello che si meritano, fino a quando gli empi, o Eterno, fino a quando gli empi trionferanno, fanno discorsi arroganti, tutti i malfattori si vantano, schiacciano il tuo popolo, o Eterno, e opprimono la tua eredità, uccidono la vedova e lo straniero, ammazzano gli orfani. Dicono, l'Eterno non vede, il Dio di Giacobbe non se ne preoccupa. Salmo 94, 1 a 7. I giudei avevano un'idea completa di Dio, Yahweh è misericordioso, ma anche il Dio che si vendica. Dei nemici. Egli stesso si è presentato con queste caratteristiche in Esodo 34, 5 a 8. Yahweh discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome di Yahweh. Yahweh passò davanti a lui e gridò, Yahweh, Yahweh, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. Come Mosè, anche il cristiano deve adorare il suo Dio, non come egli pensa o desidera che sia, ma quale egli si è rivelato. Come accettiamo che Dio sia buono perché egli si è rivelato con questa caratteristica, così dobbiamo accettare che Yahweh sia il Dio delle vendette sempre perché egli lo ha detto. E ce ne ha dato dimostrazione. Infatti leggiamo che Gesù verrà in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. 2 Tessalonicesi 1, 8. Gesù è sì l'agnello che si è sacrificato, ma anche il leone, che sbranerà i suoi nemici. B. Le imprecazioni che troviamo nei Salmi sono causate dal fatto che Dio odia il peccato. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto d'olio di letizia. Ti ha preferito ai tuoi compagni. Salmo 45, 7. Se Dio odia il peccato, odia anche colui che ama il peccato. È vero che Dio ama il peccatore, ma colui che lo è per nascita e non di fatto. Nel Salmo 11, 5, leggiamo, Yahweh scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Credo che sia da mettere a fuoco l'opinione secondo la quale Dio ama indistintamente tutti gli uomini. Gesù è morto per tutti, per quelli che non sanno quello che fanno, ma sono inescusabili e odiati da Dio tutti coloro che rifiutano, come Giuda, il boccone di riconciliazione. Se poniamo troppa enfasi sull'amore di Dio, mettiamo in ombra il suo odio e la sua ira verso il peccato e colui che lo commette. C. Le imprecazioni contenute nei Salmi sono il risultato dello zelo morale di un uomo santo. Al direttore del coro, per strumenti a fiato. Salmo di Davide. Porgi l'orecchio alle mie parole. O Eterno, sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido d'aiuto, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. O Eterno, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno, poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà. Presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi. Tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi. L'Eterno disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa, rivolto al tuo tempio santo. Adorerò con timore. O Eterno, guidami con la tua giustizia, a causa dei miei nemici, che io veda diritta davanti a me la tua via, poiché nella loro bocca non cade è sincerità, il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Condannali, o Dio, non riescano nei loro propositi, scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a te. Salmo 5, 1-10. Ci è difficile fare nostri questi sentimenti, eppure è Dio che detesta chi compie il male, Chi disprezza l'uomo onesto? Se non siamo in grado di chiedere a Dio di condannare tali persone, di avere tali impulsi, la ragione è che questi sentimenti non sono al di sotto di noi ma al di sopra. Al di là. La persona che è motivata dallo Spirito Santo desidera che Dio faccia vendetta. Chi non ha questo sentimento vive un cristianesimo inferiore alle aspettative di Dio. Come disse qualcuno, l'uomo ha serbato dalla sua origine un sentimento della giustizia che egli sa sfruttare a suo beneficio, e tutte le corde del suo essere si tendono quando il libero esercizio di questa giustizia è impedito. Tali imprecazioni nei Salmi sono il risultato dello zelo per l'onore di Dio. Dio mio, rendili simili al turbine, a stoppia portata via dal vento. Come il fuoco brucia la foresta, e come la fiamma incendia i monti, così inseguili con la tua tempesta, e spaventali con il tuo uragano. Copri la loro faccia di vergogna perché cerchino il tuo nome, o Eterno, siano delusi e confusi per sempre, siano svergognati e periscano. E conoscano che tu, il cui nome è Yahweh, tu solo sei l'Altissimo su tutta la terra. Salmo 83, 13-19. Le preghiere dei salmisti non sono il segnale di sete di una giustizia personale, ma del profondo desiderio che Dio venga cercato, conosciuto e glorificato, Salmo 83, 13-18, perché i credenti si rallegrino in Lui, Salmo 5, 10-12, raccontino le lodi a Dio, Salmo 9, 13, perché non prevalga il male, e venga meno il giusto, Salmo 12, 3-4 e 1-2, e le imprecazioni contenute nei salmi sono originate dall'intenzione dei salmisti di essere realisti. Yahweh, fammi vivere per amor del tuo nome, nella tua giustizia libera l'anima mia dalla tribolazione. Nella tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo. Salmo 143, 11-12. Chiedere a Dio di distruggere i malvagi non sembra molto cristiano. Ma la richiesta che il bene vinca sul male è una preghiera suscitata dallo Spirito Santo. Del resto, tutti noi desideriamo che vinca il bene quando invochiamo il ritorno del Signore Gesù Cristo. Il ritorno di Cristo sulla terra sarà il colpo definitivo inferto ai malvagi perché saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. 2 Tessalonicesi 1, 6-9. Non si può desiderare che vinca il bene senza desiderare che i malvagi siano puniti. Dio non può fare prevalere il bene senza che il male venga annientato. Non vi è scelta senza riprovazione. La preferenza data ad una cosa non può sussistere senza l'affronto ad un'altra. È un'assurdità volere l'uno e l'altro. Il bene e il male sono in antagonismo, non solo in astratto, ma anche in concreto. Volere il bene comporta inevitabilmente odiare il male, rifiutarlo. I salmisti avevano una chiara visione dell'antitesi esistente fra coloro che credono e coloro che si mettono contro Dio. La parola di Dio non ci è stata data solo perché sapessimo in chi credere, ma anche come dobbiamo vivere. Se la Scrittura non determina il nostro modo di agire, rimane un libro con delle verità teoriche, e colui che la legge rimane sempre più colpevole. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12:48. Il Salmo 101 è un bellissimo esempio di preghiera cristiana che il credente dovrebbe interpretare alla luce di quanto esposto in precedenza. Uno Salmo di Davide. Canterò la bontà e la giustizia. A te, o Yahweh, salmeggerò. Due avrò cura di camminare nell'integrità, quando verrai a me. Camminerò con cuore integro, dentro la mia casa. Tre, non mi proporrò nessuna cosa malvagia, detesto il comportamento dei perversi, non mi lascerò contagiare. Quattro, allontanerò da me il cuore perverso, il malvagio non voglio conoscerlo. Cinque, sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto, chi ha l'occhio altero e il cuore superbo, non lo sopporterò. 6. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me. Chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore. 7. Chi agisce con inganno non abiterà nella mia casa, chi dice menzogne non potrà restare davanti ai miei occhi. 8. Ogni mattina sterminerò tutti gli empi del paese per estirpare dalla città di Yahweh tutti i malfattori. Questa preghiera di un credente timorato di Dio mette in evidenza un grandissimo desiderio di comportarsi in modo santo. Egli si era proposto la santità in tre ambiti. A. Nella sua famiglia. B. Nella sua vita intima. C. Nella vita pubblica. Condursi in modo santo era e deve essere lo scopo principale e ultimo dei santi di ogni epoca. Quando Dio chiese a Zaccaria di cuocere le focacce d'orzo usando degli escrementi d'uomo, il profeta si lamentò con Dio perché facendo in tal modo si sarebbe contaminato. Ezechiele 4:14. Quando la voce divina ingiunse a Pietro di mangiare degli animali impuri, l'apostolo fece resistenza. Atti 10:14. Alla fine della sua vita l'apostolo Paolo scrisse a Timoteo: "Il Signore mi libererà". A questo punto chi legge si interroga su quale liberazione stia a cuore a Paolo. Da ogni azione malvagia. 2 Timoteo 4:18. L'apostolo non era tanto preoccupato di essere liberato dalla sofferenza, dai suoi nemici, ma di commettere atti che avrebbero offeso e disonorato Dio. Stupendo sentimento! I salmisti non erano da meno. Più volte troviamo nelle loro preghiere l'invocazione di essere esaminati, investigati, giudicati da Dio, e tutto questo per poter essere santi in tutta la loro condotta. Salmi 7, 8, 26, 2, 139, 23. Chi di noi si presenta a Dio con la richiesta di essere giudicato da Lui? Questo è il cristianesimo, amare il bene, essere irreprensibili nella santità, odiare il male e pregare perché esso venga eliminato. Facciamo nostre le parole che Pietro scrisse al termine della sua vita. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità, di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. 2 Pietro 3:10-13. Siamo noi di quelli che attendono e affrettano la venuta di Gesù Cristo con una condotta santa e aspettano nuovi cieli e nuova terra dove regnerà la giustizia. Aprile 1978. Ellero.